Oh.

io penso al resto. Ditemi fido, ora la tengo. Mio caro Figaro, intendo, intendo. Porterò meto, la borsa piena. Sì, quel che vuoi, ma il resto poi. Così dubiti che andrò. Voce di giù, e si consento, d'ardore insolito quest'alma accende, e di me stesso, ma dormi fa, delle monete, il suo già sento, ma che d'amore, la loge, la gente, la fiamma io sento, l'unzio di, ecco, luce, viene l'argento, e di cosa, ecco, il già si accende, e come pizzo, e insomma, questa mi scende, d'ardore insolito, questa noce, di me stesso, dormi fa, e di me stesso, ma dormi fa. Numero 15, facciata bianca, 5 parrucche, alla moderna, e per l'insegna, una lanterna, 5 parrucche, la vetrina, la vetrina, la vetrina, la vetrina, la vetrina, la vetrina, thank you.

e meschino calunniato avvilito calpestato. E allora? Sotto il pubblico pagello mega sapeva crepar e il meschino calunniato avvilito calpestato sotto il pubblico flagello per gran sorte e fa crepar. E il meschino calunniato avvilito calpestato sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepare. Il meschino calunniato avvilito calpestato sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepare. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepare. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepare. Si va a crepare, si va a crepare, si va a crepare. Siete voi bella rosina, siete voi, siete voi bella rosina, che voi sopraffina, che voi sopraffina, ma la brava far con me, sì, ma la brava far con me. Ma zitto qui l'indoro per parlarvi oror sarà, zitto zitto qui l'indoro per parlarvi oror sarà. Per parlarmi, bravo bravo venga pur ma con prudenza, io già moro di pazienza, ma che tarda cosa fa? Egli attende qualche segno, poverin, del vostro affetto, sol due righe di biglietto, sol due righe di biglietto gli mandate, qui verrò, gli mandate, e qui verrò, gli mandate, qui verrò. Che ne dite? Non vorrei. Su, coraggio. Non saprei. Sol due righe. Mi vergogno. Ma di che? Che si sa, presto, presto, un biglietto. Un biglietto? Sì. Eccolo qua. Già era scritto. Beh, che bestia, beh, che bestia, il maestro faccio a lei. Fortunati avete gli e ho cominciato a respirare. Attingate la costei di malizia potenza. Non parlate, ostinate. So benino che le chiedo da far, so benino quel che ho da far. Signorino, un'altra volta che lo vado da fuori, signorino, un'altra volta che lo vado da fuori, la consegna di Vittorio, se vuole cosa aprirà. Signorino, un'altra volta che lo vado da fuori, signorino, un'altra volta che lo vado da fuori, la consegna di Vittorio, se vuole cosa aprirà. E non sei non rivolta, se pure la gatta morta, faccia pure, la gatta morta. Questo poi quella porta, nemmell'aria, nemmell'aria potrà. E Rosalia innocentina, sconsolata, disperata, e non c'erano le scorfie, fatta quella gatta morta, questa quella porta, nemmell'aria potrà. E Rosalia innocentina, signorino, un'altra volta quando vanno fuori, signorino, un'altra volta quando vanno fuori, la consegna di Vittorio, se vuole cosa farà. Signorino, un'altra volta quando vanno fuori, signorino, un'altra volta quando vanno fuori, la consegna di Vittorio, se vuole cosa farà. E non sembra il morto, faccia pure la gatta morta, faccia pure la gatta morta. Rosina innocentina, sconsolata, disperata, per non sapere le smorfie, faccia pure la gatta morta, respirar dove sia guarda don Barbatopolo guarda don Barbatopolo sembra una scarpatina sembra una scarpatina sta a cardinare sta ben stretto ridere spover crepare sfilar da ridere spover crepare Thank you. voi. Mille grazie, non si incomodi. Gioia e pace per mille anni. Obbligato, in verità. Pace e gioia sia con voi. Mille grazie, non si incomodi. Gioia e pace per mille anni. Obbligato, in verità. Questo volto non è mio. Ha su un colpo andato vuoto. Non ravviso, non ricordo. Ad appar questo ballone. Ma quel volto. Un bel travestimento. Non capisco chi sarà. Più propizio me sarà. Sì, sì, propizio me sarà. Gioia e pace, pace e gioia. Ho capito, cucciol che noia. Gioia e pace per il cuore. Basta, basta, basta, basta, basta, basta, per pietà. Gioia e gioia. Pace, pace, ho capito, ho capito. Cucciol che noia. Ben di cuore, pace, gioia. Basta, basta, gioia. Basta, per pietà. Pace, perfido destino. Il vecchio non mi conosce. Ma che barbara giornata. Come sorte fortunata. Ma che perfido destino. Oh, ma che barbara mio giornata re. Ma che perfido destino. Oh, oh, mi sogno. Tutti quanti mi davanti. Oh, mi davanti. Tutti quanti mi davanti. Che tu devi libertà. Ma che bello amore destino. Ma che barbara giornata. Parleremo di libertà. Gioia, canaglia, pace. Ma basta, gioia. Basta, basta, per pietà. Ma che bello, ma che destino. Ma che bello, ma che destino. Che pace! Basta! 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天十点，二十二点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月。请欣赏普契尼的歌剧《托斯卡》中的选段，由米瑞西欧、莱姆蒂博、卡洛里等歌唱家的演唱，斯洛华克爱乐合唱团演唱，捷克斯洛华克广播交响乐团演奏，拉巴里指挥。 se bellezze ne siem core fonde, ma Eccellenza, vado! Al tuo piacere! Lieno e paniere, fa penitenza! Fame non ho! Oh, mi rincresce! Va di grande segno, da! Va! Oh. Oh, Nel tuo pronto sospetto Tarda è la notte. Alla cantata ancor manca la diva. E strimpellan gavotte. Tu attenderai la tosca in sull'entrata. Dirai che io l'aspetto finita la cantata. O meglio, questo biglietto e la verrà e l'amore del suo Mario e l'amore del suo Mario al piacere mio tal dei profondi amori e la profonda miseria ha più forte sapore la conquista violenta che il melliflo consenso io disegno ciel bel lunare poco m'appago, non so tror accordi di chitarra, ne lo scopo di fior, ne far l'occhio di pesce, o tubar come porpora. Thank you. nel pozzo del giardino va, spoventa! Hai tradito, maledetta! L'esperienza tra di voi, che vuol dire quell'aria prima? Questo ciò di sconfitta, è sconfitta, come, come? Mamma mia, guarda qua! Ora parte vincitor, me lasco, me lasco in fuga! Guardo, odio, in me tarde giova, più brava in pelo scima. Oggi folle o parlo, carigliassi alla morte, ma poi questa parte ho giurato a mio speranza. La regina farebbe grazia ovunque dovere. Come tu mai? Oddio! Così, così ti voglio. Ultima e condannati, il tempo passa, sai quale oscura opera laggiù si compia. Là si drizza un pavio, quel Mario per tuo voler non resta che un'ora di vita. Thank you. non ancora. Vuole un salvacondotto onde fuggire dallo stato con a lui. Partir dunque volete? Sì, per sempre. Sì, adempi al voler vostro. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。